24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano le reazioni dei governi europei all'uccisione di Osama Bin Laden, ma parleremo anche di immigrazione e soprattutto di economia con le dichiarazioni del governatore di Banca Italia Mario Draghi e del presidente della European Banking Authority Andrea Enria. E per lo sport vi anticiperemo il ritorno della semifinale di Champions League Barcellona-Real Madrid. L'Europa, come dicevamo, ha accolto con sollievo la notizia dell'uccisione di Osama Bin Laden in Pakistan, resa nota dal presidente americano Barack Obama nella notte tra domenica e lunedì. Sentiamo le reazioni nel servizio. This news will be welcomed right across our country. Of course, it does not mark the end of the threat we face from extremist terror. Non rappresenta la fine della guerra al terrorismo, ma la morte di Osama Bin Laden rappresenta un grande sollievo per il mondo intero. È un messaggio del premier britannico David Cameron ad aprire la sequenza di interventi dalle capitali europee che si sono svegliate con la notizia arrivata da Washington quando l'Europa dormiva ancora. Anche la Francia rende omaggio alla tenacia degli Stati Uniti. Sono le parole che arrivano dall'Eliseo a nome del presidente Nicolas Sarkozy. L'uccisione del capo di Al-Qaeda costituisce una vittoria delle forze di pace, dice la cancelliera tedesca Angela Merkel, cui fa eco il ministro degli esteri Westerwelle. Poi gli ex presidenti, quelli in carica al momento dell'attacco alle Torri Gemelle, a cominciare da Tony Blair. Per l'ex premier britannico la lotta al terrorismo è tuttora urgente, anche dopo la morte di Osama Bin Laden. Parlano con un'unica voce il presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, il presidente del Consiglio europeo. La sua morte rende il mondo un luogo più sicuro e dimostra che questi crimini non rimangono impuniti, scrivono in una dichiarazione congiunta. E concludono: l'Unione europea continua a stare a fianco degli Stati Uniti nella lotta contro il flagello dell'estremismo. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per Gilles de Kerchove, coordinatore antiterrorismo europeo, caduto Osama non cade la minaccia del terrorismo di matrice islamica, ha assicurato. Come simbolo Osama non potrà mai essere sostituito, ma c'è ancora una minaccia reale del terrorismo islamico, ha detto de Kerchove. Sui rischi terrorismo ascoltiamo ora il servizio. Morto Bin Laden ha aumentato il rischio terrorismo. Ora dobbiamo tenere gli occhi ancora più aperti, c'è da aspettarsi una risposta, confida un alto investigatore. Il pericolo è una rappresaglia contro obiettivi occidentali, sia da parte di cellule sparse che estremisti fai da te. L'uccisione del leader di Al-Qaeda fa crescere, infatti, almeno per un po', il rischio di terrorismo islamico, come ha subito comunicato l'Interpol, mettendo in massima allerta le forze di polizia, perché c'è ancora una minaccia reale, ammette il coordinatore europeo antiterrorismo. Così, mentre il Foreign Office sollecita vigilanza ai britannici all'estero, anche nel nostro paese subito è stato convocato il Comitato di Analisi Strategica al Viminale. Il ministro Maroni: stiamo predisponendo le misure per aumentare i controlli su tutto il territorio nazionale. Controlli aumentati all'ambasciata americana come allo scalo di Roma e nei principali aeroporti internazionali. Contemporaneamente è sui gruppi di estremisti che si concentra l'attenzione degli 007 per scongiurare anche il gesto isolato come quello del kamikaze che 2 anni fa si fece esplodere in una caserma di Milano. Al-Qaeda da tempo, nota il capo dell'antiterrorismo milanese Armando Spataro, non ha una guida unitaria. La sua morte certo potrebbe produrre reazioni inconsulte da parte di coloro che praticano il cosiddetto terrorismo fai da te. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. E ora la pagina economica. La crisi non è ancora finita, lo ribadisce in maniera esplicita il presidente della BCE Jean-Claude Trichet. Lo conferma il suo probabile successore Mario Draghi. La crescita economica c'è, ma ci sono rischi che ci accompagneranno probabilmente ancora per un po' di tempo. Il governatore di Banca Italia e presidente del Financial Stability Board, intervenuto a Bruxelles nell'ambito di un convegno organizzato dalla Commissione Europea per fare il punto sulla riforma finanziaria, ha elencato questi rischi. Da una ripresa ancora diseguale a politiche economiche divergenti, dall'aumento dei debiti sovrani a quello dei prezzi, dagli ampi squilibri tra le bilance dei pagamenti e le pressioni sui tassi di cambio. È soprattutto il livello dei debiti pubblici a preoccupare, perché il fenomeno si intreccia strettamente con quello della persistente debolezza delle banche. Per questo, sottolinea Draghi, resta fondamentale l'attuazione rigorosa dei programmi di risanamento. E ora la giornata di borsa, sentiamo. Chiusura stabile per le borse europee, frenate sul finale dal timore che la morte di Osama Bin Laden possa innescare un'escalation di violenza. Del resto la CIA ha indicato che la vendetta è certa. Il FTSE MIB ha perso un frazionale 0,09%. Si sono messe in evidenza le Fiat, più 3,89%, festeggiando il ritorno all'utile della partecipata Chrysler. Per l'azienda di oltreoceano è il primo trimestre in nero dal 2006 e dopo la bancarotta del 2009. A borsa chiusa poi sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni di aprile, scivolate in Italia per Fiat dell'8,4% e per il mercato in generale del 2,2%. Sono risultate deboli le banche, complice il fatto che nei prossimi mesi è in arrivo un'ondata di aumenti di capitale per un totale di circa 10 miliardi di euro. Hanno però fatto eccezione le Banco Popolare, più 0,2%, grazie alle rassicurazioni dei vertici dell'istituto che hanno smentito qualsiasi progetto di nuovi aumenti di capitale. Tod's, meno 2%, ha sofferto i realizzi, incoraggiati dal giudizio negativo di Chevrolet. Sono andate ancora giù le ST, meno 1,25%, sempre sull'onda delle previsioni poco esaltanti per il secondo trimestre. Per contro, sono andate bene le Lottomatica, più 1,8%, trainate ancora dalla revisione al rialzo delle stime per fine anno. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24, Il Sole 24 Ore. La situazione dei conti pubblici nell'area euro è ancora precaria e occorre un ambizioso sforzo di consolidamento pluriennale nella maggior parte dei Paesi membri. A lanciare l'allarme è la Banca Centrale Europea nel suo rapporto annuale 2010. Sempre per la BCE, i rischi di contagio della crisi finanziaria ad altri paesi dell'area euro sono rimasti nel corso del 2010. Ma guardando in avanti, lo scenario principale per la stabilità finanziaria appare ampiamente favorevole. I risultati degli stress test sulle principali banche europee verranno pubblicati nel mese di giugno. Da allora ci saranno 6 mesi di tempo perché gli stati decidano azioni immediate per ricapitalizzare gli istituti di credito in sofferenza. Lo ha affermato nel corso di un'audizione al Parlamento europeo il presidente della European Banking Authority, Andrea Enria. E la Grecia potrebbe avere difficoltà a finanziarsi nel 2012 e a raccogliere i 25 miliardi previsti dal piano del governo, lo afferma Klaus Regling, presidente della European Financial Stability Facility, in un'intervista al quotidiano Handelsblatt. I progetti di Atene sono troppo ottimistici, ha detto Regling, aggiungendo che la Spagna non avrà bisogno di ricorrere all'IFSF e che il mercato ha compreso che la crisi del debito in Europa sarà limitata a 3 paesi che incidono per il 6% del PIL europeo. Voltiamo ora pagina. La risposta del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso alla lettera congiunta sul tema immigrazione inviata dal Premier Silvio Berlusconi e dal Presidente francese Nicolas Sarkozy dopo il vertice bilaterale del 26 aprile è uno sviluppo che consideriamo positivo. Lo ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri francese. Il portavoce ha aggiunto che Barroso ha accolto l'iniziativa franco-italiana come un contributo importante al dibattito in corso su questo tema che sarà affrontato dagli stessi capi di Stato e di Governo europei in occasione del prossimo Consiglio in programma a Bruxelles a fine giugno. L'Ombudsman europeo ha scritto la parola fine sul caso delle agende scolastiche 2010-2011 pubblicate senza le feste cristiane come il Natale. Il mediatore, il greco Nikiforos Diamandouros, ha reso noto di aver chiuso la questione dopo le scuse della Commissione europea. Ricorda il mediatore, la Commissione ha inviato una rettifica a tutti gli insegnanti che avevano richiesto le agende. E ora gli spettacoli. Si ispira ai cantanti che negli anni 60 hanno conquistato l'Europa con le loro canzoni apparentemente disimpegnate, da Mina a Rita Pavone. Dopo anni di gavetta in cui ha fatto il giornalista per professione, esce oggi il suo primo CD, Chi fa da sé fa per tre. Marta Cagnola ha intervistato Fabio Milella. Si fanno ascoltare sempre gli anni 60. C'era una grande voglia di rivincita, c'era una voglia di star bene, c'era la voglia di ridere, di sorridere, di non pensare, e questa è una cosa magnifica. Cioè, gli anni 60 sono stati proprio, secondo me, la culla della musica, anche moderna, se vogliamo. Era fantastico, con pochi giri di accordi. Tu pensi a Sapore di sale, con un giro di accordi, di pochi accordi, cioè riuscivi a fare una canzone che ha fatto sognare e fa sognare tuttora. Oggi è come la fotocamera digitale, c'era il gusto di fare le foto, c'era il gusto di svilupparle, c'era il gusto di guardarle. Sai, quando tu vivi in una società in cui tutto quanto è così veloce, è inevitabile che tu fai 100 migliaia di foto le metti sul computer e ne guardi più neanche una. Oggi deve essere consumato tutto velocemente. In chiusura lo sport, stasera Barcellona-Real Madrid eleggerà la prima finalista di Champions League. All'andata al Bernabéu 2-0 per i catalani, tra le prodezze di Messi e le polemiche di Mourinho, il tecnico madridista espulso insieme al difensore dei bianchi di Spagna e lusitano Pepe. Fatto curioso, al Camp Nou arbitrerà il belga De Blecker, che l'anno scorso espulse l'interista Motta nella semifinale proprio contro il Barcellona e che Mourinho ha citato come esempio di arbitraggio negativo nell'infocata conferenza stampa dopo la sfida d'andata coi catalani, coincidenza che non è certo sfuggita al nostro Carlo Agenta durante A Tempo di Sport. Perché Ovrebo? Perché Busaka? Perché De Blecker? Perché Stark? Perché? Perché De Blecker torna, perché De Blecker torna evocato da Mourinho, ormai famosissima conferenza stampa del dito e della luna. Perché così è, mi sembra fin troppo banale sottolinearlo di nuovo e forse fin troppo banale sorprendersi di nuovo di fronte alle strategie di Mourinho, che ha indicato a tutti che ha mostrato a tutti il dito, impedendo a molti di vedere la luna di un Real Madrid l'altra sera, semplicemente sbagliato. Comunque De Blecker torna e arbitrerà Barcellona-Real Madrid di martedì. Risultato in questo caso secondo me assolutamente non in discussione, con il Barcellona che da grande squadra dovrebbe riuscire senza troppi problemi a gestire la qualificazione, e chissà cosa avrà poi da dire lo squalificato Mourinho. Domani l'altra semifinale tra Manchester United e Schalke 04, all'andata in Germania 2-0 per gli inglesi, finale a Wembley sabato 28 maggio. E per gli appuntamenti europei di oggi vi segnaliamo l'incontro tra la commissaria agli affari interni Cecilia Malmström e il direttore dell'Agenzia ONU per i rifugiati Daniel Endres. In calendario anche la presentazione all'Europarlamento della ricerca sui giovani e il bere responsabile. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.